ci sentiamo a domani. Ciao ciao a tutti. Ciao Claudio, buon casca sotto il Correa, ci sentiamo la prossima, stammi bene, avanti Antonio. Saluto Nicola, ciao, ci sentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Ciao ciao ciao a tutti e due. È convinto che sono importante. Ma a me mi dà fastidio tu. Ma stai scherzando, ma curbero di gonfa, Tony. Deve pensare che sono fuori io, beh. Ragazzo mongolino e ragazzo bomba. A parte ieri mattina mi sono svegliato alle 4:30. Mi sono stirato, tu. Cazzo, mi sono venuti questi due campi alle gambe. Mi azzicchino, mi sono alzato di colpo a mettermi in piedi per farmelo passare, e siccome non riuscivo a mettermi in piedi perché il dolore era troppo forte, mi sono mantenuto al mobile e il mobile si è andato di mucchia, mi è caduto un portatile, si è aperto in due, meno male non si è rotto, quello lì mi è messo a posto, ma ogni dolore, ma carità, non lo avrò nessuno l'altro. Capita, capita, cioè capita molte volte. Però io mi un periodo qualche dolorino al ginocchio quando lavoravo tanto, poi me lo faceva che mi faceva venire un dolore. No, ma questo le clappi, capito? Sono tutti stili il nero, non so se sia a cavallo, cosa mi ha succhi, ma un dolore così tremendo, guarda. Niente, a me mi ha riparato, mettiti subito in piedi, cerca di addrizzare il piede e ti passa. Subito, all'istantaneo proprio. E infatti faccio sempre così e mi sono trovato bene. La prima volta che non sapevo, rimanevo col piede piegato e si creava un dolore fin quando non mi passava. Invece sono, sì, c'ho dolore, sopporto, grido un po', però mi alzo il corpo e già mi passa. Dove la forza e la volontà impressa di primi in piedi, se no un casino. Capo, è così, cioè, mamma mia, quando si blocca è un casino, quando lavoro molto, molto, molto succede a me, che mi si blocca il ginocchio addirittura, non proprio bene, ma il ginocchio. No, a me il portaccio proprio della gamba. Tutte e due, mai tutte e due, uno solo sì, ma tutte e due. Me lo fa molte volte, diciamo, allora, se io faccio la nottata, cioè periodo di Capodanno, Natale, eccetera, sarei sempre seduto giocando a carte, eccetera, eccetera, fino a 4-5 del mattino. Come vado a stirarmi, mi viene subito il campo, immediatamente. Mi conosco già mai. Niente, infatti questi giorni c'è che stirarmi di meno, quando mi prima mi alzo e poi mi stiro, sino a buonanotte. Sì, sì, sì. La circolazione, magari te troppo un po' di più essendo cardiopatico. No, non ero mai, perché lo facevo anche prima che mi ammalassi a cuore, capito? Me l'ha sempre fatto da giovane pure. Sono i nervi che si rilassano e tu quando ti stai a lavorare così, poi come ti stiri, fai il colpaccio alle gambe dure, il nervo si accavalla, poi lui. Sì, e comunque è sempre roba di circolazione, è sempre roba di circolazione. Ma cos'è, ti è stato quasi infartato, no? Cosa è successo? Cioè, non ho capito. Cioè, hai avuto un infarto tu, cosa è successo? O un mezzo? No, niente infarto. Scompenso cardiaco. Tu, greccio mio, ma non è che è andata bene. No, ma io me la portavo già da una decina, 12 giorni appresso questa cosa qua. Capito? Io camminavo e facevo 2-3 passi. Ecco perché ho fatto una corsa di 3 km, affannato. Non riuscivo qui a respirare normale. Facevo un quarto di respiro, fatto il conto. Avevo voglia di respirare. Oh. Alla fine mi sono rotto le palle, sono andato all'ospedale e mi hanno ricoverato l'urgenza. Ma che ti è andato anche bene, magari se tardavi non ci sentivamo neanche più. Io ce la pelle dura. Lo so, lo so. Aggiungo solo i pizzitti un attimino. Abituato. là, mi buro, Io gli occhiali non li porto, ma li metto per quando vuoi la scrittura piccolina, piccolina, capito? Adesso 10-10, grazie a Dio, vedo bene. Però se devo leggere i giornali devo mettere gli occhiali per ingrandirmi la scrittura. Dopo 45 anni la vista cala, Io non me la giusto di fare piccetti, 200 di zio, la massa che ne guaria. Non ho dovuto fare perché non c'avevo più un cazzo. No, io se arrivo appunto che poi non riesco più a vedere, per gli occhiali occhiali mi metto lì a contatto per la notte. Sì, già ci può fare, già. Sulla patente per un codice, che te lo segna. Lo so. Sì, pur rimango lento a contatto, azzurri, poi domani abbiamo Gomeggi, così ci hanno rigori. Pur rimango lui, gialli. È già un gioco, via. Ma la rottura di balle con questa mascherina, mi ci appannano, è un casino, Ho letto su Facebook, dice, sono contentissima che la femmina di avere la mascherina, perché almeno posso uscire a fare la spesa e non mi metto la dentiera. La mazza che te ne varia. Cosa è successo? Carità, cazzo contentissima, io sono scontentissimo, che è una condanna per me. Ma tu non hai capito, a chi inizia senza denti è un casino, a me la potete essere senza essere denti. Ma non vederli là la situazione. Allora, sto aspettando il tempo a vedere cosa faccio domani. Non dice una cosa ai nonchi e tu la capo mi lami a ciappata la capa. Niente, mi stavo cercando il calibro, porca miseria, non ho aggiunto, chissà il calibro l'ho messo, che me la viondo le mani, devo cercare meglio, perché poi mi ho preso un altro tubo che va dai 2.12, non so se metto 12.25 e aumento di altri 2 metri d'antenna. Cavolo, così alta la puoi fare. E ce la sono 6 metri partendo dalla terra, il tubo. Ah, già tenete un tubo, sì. Tubo da 2 pollici, 2 staffe, 2 zacche attaccate al cemento, entrate dentro al blocchetto a voglia. A voglia, allora. Poi 2 dei tiranti, sagola grossa, da 12, a voglia. Sì, a voglia che tene. Cosa faccio, un tubo pure tirante dai boccio? Ha messo i tiranti, 2 tiranti grossi, di sagola, capito? E poi c'è l'antenna che è alta quasi 7 metri. Sì, la conosco la Energy. L'unico problema che ha è che non puoi caricare più di tanto. Il massimo mi sembra 1000 kilowatt, c'è un kilowatt. Mi pare che sia decudente un watt, a poi da me. No, un chilo. Ma poi, ripeto, a me non me la fotti nulla. Va bene liscio, mi sento, e sto arrivando anche la grande, so se mi va bene così. Sì, cappa. Ah, già va bene, tanto quelle potenze non le usi. Io a capo stai usando il 213. No, addirittura momentaneamente ho messo le 58 con un barilotto e aggiunto, capito? Poi mettevo ordine, in tutti ho fatto un piccolo trasloco da sempre qua in campagna, capito? Da un all'altro. Ho guardato bene a bordo, mi sono trovato una tassa di 40 metri che avevo di 10-48 tutto intiero. Quando faccio quello spostamento metto il cavo intiero. Oh, crappa. 213 è meglio però, Non è dispersione. Soprattutto per te che c'è molto cavo. Vabbè, io vado 5 metri e me ne affutto, però... cioè, quando ne hai tanto va bene 213, capo grosso ci vuole. Ma guarda, io non è che ho trovato la matassa ai 40 metri, ma io se o no ne ho dunque, sono sì, massimo 15 metri, non di più. Cioè, già va bene allora. Il capo se va bene, voglia. Andò bene, allora mi sono perso il tempo e siamo gli alloggi, no, guarda su un altro canale, ora su internet lo trovo subito, è così. parecchio, ci va pure un coso il cambio di colore, che te ne ha poco di dazio, non ce ne comprendi nulla. Niente, cioè, mi ha detto che era il mese rovinato, c'ho già 3-4 mesi fermo, devo passare da vettura a portarlo, ma niente, ho troppo da fare, finisco tardi, sono stanco e mi riposo. Campa, ma non c'ha problemi, c'ha. Campa, problemi me li hanno creati, sono fusibile. Bruciato, no? No, si è bruciato fusibile, ho detto questa persona di mettermela a posto, gli ha saldato un filo al fusibile, cazzo, ma non te conta 2 centesimi, che cazzo di fusibile. E me l'ha rovinata ancora di più. Campa, c'è fusibile, ci vuole fusibile a me, non è che... vabbè, questo ha fatto quello che ha fatto, c'è il video luce. Papà, i miei già vanno bene, già. Oh, non hanno in piastre. Vabbè. E la mia altra sintonizzata per lavorare comunque, dai. Vabbè, si è trovato un ZGB 131, neanche se sia 6-6. E il 131 c'ha perché? Se no, è nuovo. Quello è bello, Ma c'è, ci può modificare, è vero, Non lo so, ma lo lascio così, non mi interessa modificarlo. Mi va bene così. Ma va? Potenza quanto va? 100 o 200. Buono, buono. E tu dove c'hai? C'ho il B150, c'ho. Quanti metri, Non lo so. Bisogna da un'ottantina, non lo so. Metro sintonizzato. Sì. L'alimentatore c'ha pompa già. Sono arrivati 5 gomma. Ho visto che sta pompando abbastanza bene. Ho pagato 21 euro dai cinesi, 30 ampere. Cazzo, ma spingere. Lineare? Oh, l'alimentatore. Lineare non lo so, me l'hanno regalato una persona. Me l'ha dato, ce l'ho da tanti anni. Ah, però tu di l'alimentatore. Non è lui che decidi io. Ho 50 ampere o 30 ampere. E vanno bene. Non lo senti, non è andente. Scappa. Ventilato, mi porta bene tutto, mi porta, non si bosa, ho visto. Poi non lo so se metto qualche cosa di più forte, se si bosa, non lo so, Guglielmo. Allora, non lo so. Io so solo che, insomma, a me, per quello che sto alimentando, voglia, mi va tutto bene, ricevitore, PMR, un altro marocchino. La voglia, mi defizia male in bocchi, infatti è solo uno che ha acceso 30 ampere, 50 ma ha acceso. E cappa, già voglia, vabbè, ma l'hai preso pure tu, l'hai comprato? Cappa. Io già vanno bene già, è una bomba, Ma io mi trovo bene, la verità, ti sto dicendo. Prima quando c'avevo l'antenna più bassa mi dava un po' i problemi. Adesso che ho alzato l'antenna, fa che è una meraviglia, fa questo alimentatore. Venga. Andò bene. Tu che antenna c'hai? Ringo c'ho. Ringo? Ringo Lem. Ma praticamente cos'è? Un quarto d'ora, mezz'ora? Mezz'onda, Capito. Andò bene. E quella che è dopo la cosa, dopo la cicotave, cosa c'è? Beh, allora, la più piccola cosa è mezz'onda, così è. Un'onda, così è. Dovrebbe essere un'onda, non mi ricordo, 2 cicotave. Allora, parte da un quarto d'onda, la più piccola. Mezz'onda, 50 un'onda. Ma l'onda di antenna non la c'è ancora visto. È mezz'onda, quella è senza radiale. Senza radiale, ieri ha 3 radiali. Sì, vabbè, la tua c'è già, la mia non c'è già. La ringo della LEM, non so se l'ha mai... Non l'ha mai vista. No, non ci faccio caso, non me la ricordo adesso. Praticamente, cosa si assomiglia? ti faccio un esempio, vai, una manta va senza radiali, però la manta va diversa, è tutta un'altra cosa. Prima c'erano altri tipi che ho iniziato il baracchino io, andava spesso alla Grand Prix, quarta onda, e sparava bene. E già lo credo che sparava bene. Ma pure questo c'è da un sacco d'anni in giro, cioè, dal mercato. È come la boomerang, ci sarà 40 anni più. La boomerang non mi piace, però. Forse bazooka non fatto, non te la piccola. No, la boomerang, chi sa manna, chi sa fa 3 metri, chi sa bomba. La cosa, la storm si va, ma non è la matesi cosa. Ma la boomerang non è mai come un'antenna che abbiamo noi, capito? È una direttiva. Spara una base blu, invece la vostra è omnidirezionale e quindi tutta un'altra cosa. È una semidirettiva, non è proprio direttiva, perché c'ha lo stilo di sopra che prende tutto. Poi c'è il radiale, è una semidirettiva, però io ti dirò che la qualità prezzo è una delle migliori. Non lo so, io ripeto, bubera, manco se me la regala nel piazzo. Eppure io ce l'avevo qua e puntata. Non c'è dubbio. Io che io ci ho avuto anche la Storm, quella della Midland e la Matesigosa. Chi c'è un'antenna vero, lì c'è pompava. Sì, ma non è che... Allora, se tu vuoi trasmettere sasso al conduttore, se arrivi più a Pio con quell'antenna lì. Ti metti una di queste antenne nostre e ti sento bene, almeno, capito? A quello senza ombra di dubbio, è sempre un'antenna, però... Cioè, io ti dico la verità, io ce l'ho avuto e ero soddisfattissimo, vero? Ma io sto bene così e non cambio niente, mi basta così. Papà, adesso pure ho messo quel carringo che è una sagosa, cioè è molto più, spinge di più, non vedo dai là. Vabbè, ma se tu ti metti una 50 ridonda sopra, un bel palo di 5-6 litri, allora sì, che tu puoi dire, spingi un bel. Lo so, era un mezzo, volevo mettere a Gimaster, volevo mettere, ma già andava in ghiaccia, barabà. Vabbè, tanto, con quello che c'è frequenza, vieni tu, bah, niente un poco, altro che c'è molto da fare, sennò... Ma già la depressione, lui, ma troppo. Speriamo quanto prima. Che cazzo, comunque la Gimmassa è una buonissima antenna, la verità chi ce l'ha è contentissimo. Non so, la conosci quella che fa la Sirio? Guarda, io antenne l'ho cercata prima di mettere questa, la Firenze 2 e non l'ho trovata più. La Mantova 1 non l'ho trovata più. Quindi, le altre, non mi spiego più fiducia, ho preso al volo questa qua e basta, come non va, perché mi sto scocciando, neanche fuori, non ne fanno più, ma c'è la uva. La Firenze 2 è una signora antenna, purtroppo non le fanno più. Non la fanno più, no. Ma sai chi fanno adesso? La Superlam fanno, non so se la conosci, che c'è il radiale un bel lungo. Di loro ne fanno anche per la macchina, capito? Quanti tipi? C'è la turbo, poi la vedo la faceva, che c'è cosa la carica di vestita in azzurrino, e me ne hanno soltanto i tipi. La Superlam è tipo la Mantova a me. Cazzo niente antenna. Mantova non fa più, per vedere non metto mezzo l'uno. Alta 7 metri circa, quindi. Ma comunque. L'importante è farsi sentire tu. E siccome ti non corsa, a Superlam mi pare da fusare una piattaforma di corsa di 260 euro. Ma avevo paro però me, perché un'antenna grossa. Sì, ma io la fusare non l'avrei mai comprata. Io la ordino da fuori, faccio prima. Anche fusare mi mangio un po' di nero. No, ho guardato su internet, sono quasi gli stessi prezzi. Non cambia, cioè cosa chiamerà? 10 euro ti cambierà, 10 euro perché poi col trasporto ti costa uguale. Sì, ma non c'è lo sconto perché è un rivenditore. Ti giuro, guarda, anche la Ringo, cioè a me anche la cosa, come cavolo si chiama, la bumera, cazzo, me l'ha fatta pagare di meno di internet. Guarda, ti voglio far capire una cosa, io faccio un tesista, se tu vai a Elcon, che vedo pezzi di elettrici eccetera, vuoi comprare una presa P3, che sarebbe la famosa famigerata Schuco, nonché tedesca, tu guardi, ti vai il prezzo destino, ti dà un prezzo, ci vado io perché mi conoscono, perché faccio questo settore qua, e la pago meno la metà di quello che l'ha pagato. Sì, sì, ho abbassato un po', arrivo lo stesso, sì, già va bene, ho abbassato un po' di vatto, tanto non è necessario. Sì, sì, no, ma comunque ho visto che furbo è, adesso ha preso anche la Midland, il coso, quello nuovo che è uscito dalla Midland, l'M10, lo vende quanto internet, perché io ho guardato e lo vende quanto internet, oramai si stanno adeguando. Sì, ma l'ha capito. Lui su internet giustamente va su quel prezzo e te la vende quel prezzo. Però quando lui la va a ordinare, l'ordine 3-4, sempre il venditore c'ha lo sconto. E quindi tu pensa che noi quando compriamo lo paghiamo l'IVA. Tu la paghi invece. E già vuol dire molto. Vabbè, cosa vuoi fa? Tutti dobbiamo campare. Cosa vuoi fare? E così è. Oh, però ti dico una cosa, se su internet lo pago una cosa e da lui lo pago l'altro, preferisco andare da lui. Che è giusto, se me lo fai pagare 100 voci di più non vi vengo. Ti dico da barre. No, io lo compro direttamente da fuori, faccio prima, capito? Ma io ho anche parenti a Milano, quindi. C'è ancora la Marcucci, c'è un Maverratto. Ma se faccio una telefonata, me la compro loro direttamente e me la spisco. La faccio prima. Vabbè, a Milano goccia di manco. Venga, fa. Andrà bene. Vabbè, dai, tu, mio mo, mi ci infilo nel letto e mi guardo la TV. Mi cerco un bel canale, bello bello, qualche film. Poi domani, so già che mi sveglio anche 3:30-4 e non voglio più sonno. Mi guardo la televisione e guardo di come in viso. Ok, dai, ci sentiamo domani, tu. Saltami Corea, sami bene, non 144 quando lo farai. Alla prossima, ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao Tony. Arrivo più basso con pochi watt. Qua sì, dopo 20, radio 5, la metto basso la radio, ma è perfetto, 5 perfetto. Cappa, dai. Anda bene. Ciao, buonanotte Tony. Ci risentiamo. Buonanotte tutti gli ascoltoni. Ciao ciao. Ok, ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao ciao ciao.